troppo i tuoi problemi. Pensa che in questo mondo siamo solo dei passeggeri. Arriverà il giorno che ogni uomo sarà giudicato, ma non da un altro uomo con peccato. Se la gente non ti accetta per come sei, non ci pensare. Sappi che solo Dio ti può giudicare. Caricate le pistole, i codardi scapperanno. Sangue verrà versato, questo è un vero danno. I veri uomini vinceranno, i falsi perderanno. Quando ci sarà un morto, strisce gialle metteranno. È la vita che hai voluto, non puoi tornare indietro, sei fottuto. Sono un vero gangster, questo è poco ma sicuro. Non fare la mia vita, rimane all'oscuro. Tante persone pensano che sono pazzo, ma non sanno cosa ho passato io, cazzo. Le persone false non le ho mai sopportate. Ti sorridono in faccia, poi ti tirano le infamate. Ne ho passato troppo alla mia età e ho pagato a caro prezzo la mia libertà. Non pensare troppo ai tuoi problemi. Pensa che in questo mondo siamo solo dei passeggeri. Arriverà il giorno che ogni uomo sarà giudicato, ma non da un altro uomo con peccato. Se la gente non ti accetta per come sei, non ci pensare. Sappi che solo Dio ti può giudicare. Giudicatemi come volete, torturatemi come potete. Infame scappa il più lontano che puoi, perché se ti trovo sono cazzi tuoi. Le persone cambiano al calar del sole, ti fanno rimanere male senza parole. I problemi non arrivano mai da soli, ma sempre in compagnia di altri dolori. La gente dice che sono testardo come un mulo. Barra Nike, non sanno nulla di me, fanculo. Mi hai odiato perché mi vedevi non fare un cazzo. Mi hai invidiato perché sono un bravo ragazzo. La tua è solo una stupida ossessione, ti basi su di me per definire la tua posizione. Per te vedo solo la 13ª sezione.